è inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronta per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un altro uomo camminare nella tua via, ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Lo stile differente del suo passo, sono ritagli di dettagli, se non perché ti stai immediatamente ricordando proprio di me. Altro uomo sta inventando un poema fatto di parole come quelle che ho già detto, mi sembra matto. Non credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lui non ne fa. Senza errori non si è mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo, perché se dici a un altro il nome mio, ti stai sbagliando. Hanno il piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è, sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. Furia di dettagli stai cambiando e già si sente la piccola scintilla, fa il grande incendio. L'amore tuo può morir così. Comunque se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non vuoi capire.